nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica e bentrovati a Nessuna è Perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24, il programma che segue sempre con una certa ossessione il mantra anti-multitasking, convinti come siamo che il multitasking sia una fregatura, e poi lo dicono pure le ricerche, lo dice sempre la ricerca da noi evocata della McGill University. Il multitasking fa male al cervello e comunque il cervello ce l'abbiamo già danneggiato da tante cose, non aggraviamo la situazione. Ma a proposito di ricerche, chi di voi sta su Twitter o su Facebook sa che nelle ultime settimane sono stata a Chicago e a Chicago tornerò fino a metà maggio per insegnare all'Institute of Politics dell'Università di Chicago e ho avuto modo di verificare che uno dei motivi per cui questa Università di Chicago è così apprezzata da docenti e studenti non è solo per il prestigio della sua scuola economica, famosi Chicago Boys di Milton Friedman e molti altri, non solo perché è una delle più prestigiose università, una delle prime tre, ma che fa parte di questa, diciamo, di questo apprezzamento anche l'ambiente sia dei docenti che degli studenti. Mi diceva uno dei manager dell'Università di Chicago che loro selezionano, almeno gli studenti, anche sulla base di una disponibilità del carattere, di una disponibilità mentale a stare con gli altri. Ebbene, quanto conta per un'università? Conta a maggior ragione nell'ambiente di lavoro e mi ha colpito mentre ero a Chicago leggere la ricerca dell'Università del Michigan intitolata Is Consistently Unfair Better Than Sporadically Fair? Su questo punto specifico, cioè è meglio un capo prevedibile, magari sempre di cattivo umore, piuttosto che un capo imprevedibile che però magari ogni tanto è anche spumeggiante e allegro? Secondo la ricerca che ci stavo citando, è molto meglio la prevedibilità, sia pure nella difficoltà di relazionarsi a un capo magari prevedibilmente di cattivo umore. Questo perché ovviamente il collaboratore ha delle certezze. Sarà il filo conduttore di questa puntata e sono molto curiosa di sapere cosa ne pensa il nostro agente provocatore di questa settimana. Il nostro agente provocatore Antonio Polito, vice direttore del Corriere della Sera, benvenuto. Ciao, benvenuto, grazie. È meglio avere un capo che si mantiene sempre di cattivo umore stabilmente? Ma non lo so, insomma qui bisognerebbe rispondere come catalano, è meglio un capo prevedibilmente di buon umore sempre, certo. Perché insomma un capo sempre di cattivo umore, io preferirei un capo imprevedibile, un capo diciamo con le doti del leader, cioè capace anche di essere creativo, di entrare in empatia con le persone con cui lavora e quindi di condividere anche i momenti, non so, magari di abbattimento, di rabbia, però anche quelli di riscatto. Almeno diciamo nei giornali è così, ecco, insomma, bisogna un po' stare sull'onda di quello che succede giorno per giorno e tenere sul filo la redazione. Quindi la mia risposta è meglio imprevedibile, ma certe volte in sintonia con il momento, ecco. E in politica che tipo di leadership paga in questa fase? Stiamo vedendo anche allargando gli orizzonti, per esempio agli Stati Uniti, un carattere aggressivo narcisistico come Donald Trump suscita grande attenzione nei media e di riflesso notevole seguito. Lavora sulla rabbia, lavora su atteggiamenti che non sono di ottimismo e allegria, ma ha notevole seguito. Funziona in politica il capo imprevedibile? Trump lo è certamente. Mi pare sicuramente di sì, anzi direi che è il tipo di leadership politica di maggior successo, sia quando si manifesta nelle forme esasperate, no? Un po' alla Trump, sia anche quando si manifesta, in passato si è manifestato in forme meno folcloristiche ma altrettanto toste. Io penso per esempio a Margaret Thatcher. Thatcher è una che veniva raffigurata dalla stampa britannica come una sculacciatrice degli inglesi, no? Sì. Una che quasi una dominatrice sadomaso, no? Che gli faceva male per il loro bene. E questo è un tipo di stile nella leadership politica che conta, anche perché bisogna tenere presente che la politica e governare uno Stato non è come governare un'azienda. Prima parlavamo dei capi d'azienda, qui stiamo in un ambito totalmente diverso e ahimè abbiamo una serie di testimonianze anche dirette del fatto che non basta aver saputo dirigere un'azienda per poter dirigere un paese. E in secondo luogo che il pubblico poi ha bisogno da un leader anche di essere guidato, cioè ha bisogno anche di un leader che lo prenda un po' per il petto ogni tanto e gli indichi la strada, anche quando magari non sembra essere quella della più facile, certo. Quella più facile, no? Ecco, c'è una differenza sostanziale, lo dicevi prima, tra essere leader in un'azienda ed essere leader in politica. Mi viene in mente la distinzione tra leader e capi. Un leader può permettersi degli scarti di umore, essere imprevedibile. Da un capo ci si attende invece una guida un po' anche paterna. Possiamo fare una distinzione di questo tipo? Sì, perché no? Questo mi sembra un'ottima idea. È un po', diciamo così, la differenza che ci deve essere tra un amministratore delegato e un direttore generale, no? Quello che si occupa poi delle persone, del personale, deve avere una sua coerenza, deve avere una sua consistency, come dicevi, sì, tu prima citando quella ricerca. Mentre invece il leader è necessariamente più visionario, il visionario è anche un po' più umorale, è anche un po' più imprevedibile come stato d'animo, no? Proprio perché si sporge un po' più in là, tenta di guardare un po' più in là e magari quando tutti intorno gli dicono guarda che questo è sbagliato, lui intravede una via, una possibilità. Io penso proprio che dall'espressione stessa leader, che vuol dire appunto chi guida, diciamo la leadership richieda queste caratteristiche di imprevedibilità. Quando Cooperlo qualche settimana fa ha rimproverato Renzi, ha detto tu sei un capo, non sei un leader, che cosa intendeva? Beh, voleva dire che diciamo così non era democratico, non ascoltava diciamo le opinioni della sua gente, anche di quella che oggi è minoranza, e invece si, diciamo, esercitava invece l'autorità, secondo Cooperlo al limite dell'arroganza, del capo. Questa era diciamo l'accusa, di essere un po' uno che decide da solo e che maltratta gli altri quando non sono d'accordo con lui. Ma io penso che, diciamo, se questa è la critica, sarebbe sbagliato anche per un capo essere arrogante. Ecco, e in chiusura, caro agente provocatore, nella tua esperienza di direttore, con onestà, le donne con le quali, le giornaliste con le quali hai avuto modo di lavorare in tutti questi anni, sono più prevedibili degli uomini nei loro atteggiamenti di, diciamo, di collaborazione in azienda, eccetera, o più imprevedibili? Perché questa A Nessuna è Perfetta ci interessa molto, avendo noi tante ascoltatrici e interessate a capire anche come ci vede il nostro agente provocatore della settimana. Ma nella mia esperienza sono meno prevedibili dei colleghi maschi, sono anche più ansiose anche di far bene, e anche ansiose, diciamo, con paura di sbagliare, ma proprio per questo sono, diciamo così, sono più lanciate sul rischio. Credo che dipenda anche dal fatto che debbano scalare, diciamo così, un mondo che in cui il potere è ancora sostanzialmente maschile, e quindi devono offrire qualcosa in più, e quel qualcosa in più è la fantasia, la ricerca, l'imprevedibilità, aprirsi un campo che finora non è ancora arato in un giornale e tentare di coltivarlo. Sono tutte doti che naturalmente sono molto ben viste dai direttori, che sì, vorrebbero giornalisti così. Grazie al nostro agente provocatore di questa domenica, Antonio Polito, vice direttore del Corriere della Sera, e buona domenica. Grazie a voi. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Nessuna è perfetta. Ed eccoci alla seconda parte di Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24, e questo, lo sapete, è il momento della nostra Sunday Girl. La Sunday Girl di questa domenica è la Janis Joplin italiana. Benvenuta, buona domenica a Veronica Scopelliti, in arte Noemi. Buona domenica. Grazie mille, buona domenica. Non ho potuto resistere alla Janis Joplin italiana, magari. Grazie mille. Beh, quelli della mia generazione che conoscono Janis Joplin usano a ragione questo paragone. Credo Grazie. Che insomma sia un piacere evocarlo. E io credo che di Noemi ci interessi soprattutto adesso raccontare l'animo e tutto quello che c'è dietro una cantante che ha dimostrato di non avere solo una bella voce ma anche un bel carattere, cominciando dal titolo della bella canzone dell'ultimo album Cuore d'Artista, La borsa di una donna. Ora, Noemi, io non so se tu lo sai, no? Ma in psicanalisi la borsa coincide con proprio l'identità femminile più intima. E dunque nella borsa di una donna questa canzone è proprio l'essenza della femminilità. Che cosa intendevi raccontarci con questa canzone? Ma io, la borsa di una donna sì, assolutamente descrive tutto il bagaglio, no, di esperienze che una donna può vivere nella sua vita. E quello che mi piaceva descrivere, era una donna moderna. Io il motivo per cui mi ha colpito molto il testo scritto dagli autori, no, da Marco Masini e Antonio Iammarini e Adami, che sono i tre autori che hanno scritto questo pezzo, il fatto che abbiano descritto comunque una donna molto moderna, che in qualche modo occupa molte posizioni nella sua vita, ha molti ruoli, quindi sia può essere mamma ma può essere anche una donna in carriera, comunque una donna coraggiosa con le sue debolezze, quali sono le tue debolezze e i tuoi punti di coraggio? Le mie debolezze sicuramente che sono molto pigra, un pochino sì, che non mi aiuta nel mio lavoro, perché in realtà forse uno dei punti deboli, però che in realtà mi danno molta forza, è il fatto che sono molto dubbiosa, mi faccio molte domande quando faccio le cose, cerco di vedere le situazioni che affronto, che vivo da tantissimi punti di vista, però è anche un modo, secondo me, di fare delle scelte ponderate, di non decidere di pancia istintivamente. Sì, per me è un po' difficile, perché sono abbastanza diciamo di pancia, però ho imparato nella mia vita che bisogna ponderare, perché giustamente ci sono cose che vanno decise pensandoci. Nella tua storia, che è quella di una ragazza, quindi non di decenni e decenni, però mi ha colpito che hai raccontato che quando avevi 16 anni sei stata per 3 anni molto in casa, e che sono stati anni fondamentali per diventare la donna che sei adesso. In che senso? Ma io, ero una sedicenne abbastanza, come si dice oggi, ero veramente una sfigatona di dimensioni. Ma ero molto solitaria, mi sentivo poco capita, quindi sono stata tantissimo a casa, ho sentito tantissima musica. Ecco, la musica, ci sono molte persone che che mi ascoltano, che magari vengono, mi chiedono la firma sul disco, che mi dicono una cosa molto bella, e qui mi ritrovo molto io. Mi dicono, ah, ma sai che la tua musica mi sta aiutando tanto, mi ha aiutato nei periodi bui. Questa è una cosa che io conosco molto personalmente, perché nei miei periodi bui mi rifugio sempre nella musica, e l'ho fatto anche in quel periodo là, ne ho sentita tanta. Ho suonato tantissimo il pianoforte, sono la chitarra e il pianoforte da quando ero piccola. E la musica è un grande aiuto, vero? Cioè saper suonare uno strumento è un aiuto importante. Assolutamente. Poi per chi affronta periodi di solitudine è una grande compagna. E poi insomma mi ha aiutato a essere la donna che sono oggi, perché ho avuto la grande fortuna che la musica occupa un grandissimo spazio nella mia vita e mi ha aiutato a crescere, mi ha aiutato veramente a mettere a fuoco quelle che erano anche le mie qualità, perché tante volte uno cade in depressione, oddio, una parola magari esagerata, comunque i momenti più tristi perché è concentrato sui propri difetti, no? Sul proprio sull'incomunicabilità, sulla solitudine. Invece la musica mi ha dato modo di poter raggiungere gli altri in qualche modo, di potermi far capire. Non è poco. Ecco, tu hai partecipato a talent show, sei stata a X Factor. Sono dei momenti in cui chi ha un talento riesce davvero ad emergere, oppure si rivelano delle camicie di forza da cui poi è difficile liberarsi? Io devo dire la verità che non ho mai, forse perché ho vissuto questa esperienza che era appena nata, in qualche modo era la seconda edizione, non l'ho mai vissuta come una camicia di forza. Poi ho avuto la grande fortuna, collaborando con Fiorella Mannoia, che mi ha dato la possibilità, no, di essere ascoltata anche da un pubblico diverso, che forse il talento non lo guarda, quindi sono subito uscita un po' da quel... quelle etichette lì me l'hanno un po' tolta. Diciamo che è un'arma a doppio taglio, bisogna vedere se si riesce a surfare la questione in maniera positiva o ci si fa surfare, nel senso, una cosa che mi colpisce molto sono tutte le persone che arrivano a questi provini senza aver mai suonato dal vivo, senza aver mai avuto una band, senza aver mai scritto, senza preparazione. Beh, un pochino ci vuole, perché in realtà è come se uno arrivasse all'esame senza aver studiato, insomma, un po' inutile, ecco. Nel senso, non si può pretendere che in 3 mesi si trovi la propria personalità. Insomma, quello è un percorso lungo che si fa con una gavetta che è imprescindibile, cioè quella dei locali. Oggi è un po' più dura perché non ci sono tanti locali. Io sento anche dei miei amici, e essere pagati in una maniera che sia rispettosa è sempre più dura, ecco, perché comunque il musicista fa una professione. E certo, non deve lavorare gratis, se suona in un locale va pagato. Facciamo un po' di difficoltà a capire questa cosa, sì. In realtà. Però credo che sia un percorso che per chi vuole veramente intraprendere una carriera, che poi è un lavoro, quindi insomma ci vuole una professionalità, c'è una serietà, eccetera, poi c'è pure la dimensione artistica. Però, bisogna arrivarci offrendo una preparazione, perché il pubblico quello chiede, cioè se uno vuole fare il cantante, come dici te, deve aver fatto un po' di concerti, esserti esibito in pubblico e suonare uno strumento e avere anche delle ragioni per cui ti pagano, no? Ecco. Assolutamente sì. Beh. Nel mondo della musica, Noemi, paradossalmente mi sembra che le giovani donne si vadano affermando quasi più dei talenti maschili. Ci sei tu, c'è Malika Ayane, c'è Nina Zilli. Uomini un po' meno. Come te lo spieghi? Non lo so, secondo me è una... sarà una tendenza. Forse perché l'uomo è più visto come cantautore, non lo so, o c'è una rivincita delle quote rosa della musica, che per un periodo uscivano sempre uomini, no? Mi ricordo anche nel decennio precedente a noi. Ma i vostri fan sono, non so se tu sei al corrente, come dire, di chi sono davvero quelli che seguono la tua musica, sono più ragazze o più ragazzi? Ma io sinceramente, allora, poi ultimamente sto facendo per la prima volta il tour negli in-store per firmare gli album delle persone che insomma mi seguono, eccetera eccetera. Io ho un pubblico molto variegato, con un'età veramente dal ragazzino, dal bambino di 12 anni fino alla signora, al signore o la signora grande di 60. Ma non lo so, secondo me forse è perché le interpreti, poi che insomma sì, siamo anche c'è interprete, insomma, secondo me c'è un lavoro attivo che fa l'interprete, perché l'interprete è vista sempre un po' come, no, quella che non scrive, quella che invece in realtà poi anche l'interprete fa un lavoro sulla canzone, no? In qualche modo fa un lavoro sartoriale. È chiaro che c'è un lavoro di squadra su tutto, ma mi diverte molto l'idea che vengano a seguirti la sessantenne e il dodicenne. Allora, nel salutarci, Noemi, tu non sei molto multitasking, sai che questa nostra trasmissione c'ha un obiettivo, combattere il fatto che facciamo mille cose tutte insieme, lo dico per prima a me stessa, il multitasking è una fregatura. Tu sei multitasking o no? Allora, beh, dipende, a livello diciamo creativo sì, perché mi piace dipingere, mi piace disegnare, mi piace suonare. Ma quello è bellissimo, quello fa bene al cervello, è tutto il resto che fa malissimo. No, nella vita di tutti i giorni, ecco, ci provo, ma in realtà fallisco miseramente, proprio perché sono una ritardataria cronica. Quindi... Multitasking no. Bene, abbiamo acquisito una testimonial, allora. Noemi testimonia l'anti-multitasking, per nessuno è perfetta. Grazie, buona domenica alla nostra Sunday Girl. Grazie mille, buona domenica a voi. Grazie. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Siamo nella terza parte della nostra trasmissione ed è, come sempre, il momento della domanda della settimana. Vi ricordo che potete inviarci i vostri dubbi, i vostri problemi di lavoro all'indirizzo mail nessunaeperfetta@radio24.it e potete scriverci su Twitter usando l'hashtag nessunaeperfetta o sulla nostra pagina Facebook. Ecco la lettera. Nell'azienda in cui lavoro da 15 anni ci sono stati degli avvicendamenti ai vertici. Il capo è andato in pensione. Al suo posto è arrivato un giovane manager, un uomo brillante, senza dubbio competente, ma col quale è impossibile capirsi. È estremamente lunatico. Un giorno si complimenta per il lavoro svolto in un determinato modo, il giorno seguente dice che non va bene e che è tutto da rifare. La mattina è allegro, il pomeriggio a malapena saluta. Non so come rapportarmi con lui e oltretutto la situazione sta creando un clima difficile in tutto l'ufficio. Come uscirne? Laura. E io chiedo aiuto a due massimi esperti, due persone che nella gestione delle loro aziende hanno molto a cuore la selezione dei capi giusti. Parlo di Oscar Farinetti, già fondatore della catena di elettrodomestici Unieuro e creatore di Italy. Buona domenica, Oscar Farinetti. Altrettanto, Maria, buona domenica. E Cristina Scocchia, giovane ma ormai lanciatissima amministratore delegato di L'Oreal Italia. Buona domenica, Cristina. Buona domenica. Io, oltre alla lettera della nostra Laura che vi ho appena letto, vi ricordo la ricerca che ho citato all'inizio della puntata dell'Università del Michigan, secondo la quale ricerca, in sostanza, il capo migliore è quello che ha un umore stabile. Magari è sempre negativo, ma è sempre così. Invece un capo che cambia atteggiamento sconcerta i propri dipendenti. Allora, la prima domanda che voglio porre a tutti e due è: quando selezionate i vostri collaboratori, quali sono le caratteristiche imprescindibili che devono avere? Comincerei con Oscar Farinetti e poi Cristina Scocchia. La caratteristica imprescindibile è che sappia ragionare con la testa e con il cuore. Tiriamo un asse cartesiano, mettiamo in verticale ragionare con la testa, in orizzontale ragionare con il cuore, assumiamo soltanto manager che siano nord-est, cioè che abbiano questa caratteristica. In un breve colloquio di pochi minuti, con le domande giuste, è abbastanza facile comprendere se una persona sa ragionare con la testa e col cuore. Quello che non si può capire se anche un hard worker, cioè se uno che lavora tanto, perché oggi c'è bisogno anche di questo, della quantità. E questo lo puoi capire mangiandoci un po' di sale insieme per 3-6 mesi. E alla fine, se anche un hard worker, è perfetto per la nostra azienda. Quindi ci vuole un equilibrio tra cuore e ragione. Cristina Scocchia, nel tuo caso, quando selezioni un collaboratore, che cosa chiedi? Ma secondo me è importante che le persone sappiano pensare in maniera strategica, quindi a 360 gradi, con un orizzonte temporale di lungo termine. È importante che abbiano la capacità di gestire e motivare le persone, costruendo quindi dei team forti, degli ambienti di lavoro dove ognuno riesce veramente a dare il meglio di sé. E poi è importante che i collaboratori abbiano la capacità di gestire il cambiamento, facendosi anche carico delle situazioni e delle decisioni difficili, se necessario mettendoci la faccia con coraggio e con senso di responsabilità. Quindi in sostanza, secondo me, sono fondamentali visione, leadership e coraggio. Ora, ma secondo me, se posso aggiungere, sì, un buon leader deve avere anche altro, deve avere anche onestà, trasparenza e generosità. Deve saper mettere il successo collettivo davanti a quello individuale, deve fare in modo che questi valori poi diventino pervasivi nell'organizzazione. Ecco, la lettera di Laura mette a fuoco quello che è una componente del carattere. E per tornare alla ricerca dell'Università del Michigan, non so se voi siate d'accordo, è meglio avere un capo costantemente, diciamo, di pessimo umore, ma almeno uno sa con chi ha a che fare, piuttosto che uno ciclotimico che un mattino va bene, al pomeriggio va male, Oscar Farinetti e poi Cristina. Meglio avere un capo costantemente di buon umore. Vabbè, questo sì, sarebbe la perfezione. Sono d'accordo sul fatto che il capo deve avere una forte identità che deve trasmettere ai suoi collaboratori. C'è questo proverbio valdostano che dice un pesce fete da capa, cioè il pesce puzza dalla testa, e sono belle le aziende dove il pesce puzza dalla testa, cioè dove da parte del capo è dispensato un'identità, un carattere che poi viene portato avanti dagli altri. In realtà uno che è sempre di pessimo umore non funziona, come assolutamente non funziona uno dal carattere volubile. Il buon umore è fondamentale per gestire un'azienda. Cristina Scocchia, se possiamo fare riportare, diciamo, una dimensione reale, la nostra ascoltatrice Laura dice: io non so come comportarmi, come prendere le misure di uno che non sai mai di che umore è. Uno così, che magari è bravissimo invece in tutto il resto nel lavoro, lei lo assumerebbe, Cristina Scocchia? No, una persona così non funziona. Io posso capire che un capo costantemente, quindi prevedibilmente ingiusto, alla fine possa causare meno stress nei collaboratori di un capo dai comportamenti altalenanti e instabili, perché l'imprevedibilità comunque di un leader destabilizza i collaboratori, li fa vivere fuori dalla comfort zone e quindi crea stress. Detto questo, una persona così, pur nella sua prevedibilità, non funziona. Non funziona perché un capo deve essere innanzitutto fair, ha proprio il dovere di essere onesto, etico e meritocratico. E quindi, con tutto rispetto dell'Università del Michigan, sì, più che chiedersi se è meglio avere un capo unfair talvolta o sempre, fosse l'Università del Michigan, mi chiederei cosa dobbiamo fare, come dobbiamo lavorare per far emergere delle persone, dei manager, che oltre ad avere un buon quoziente intellettivo, oltre ad avere una buona intelligenza emotiva, abbiano anche un alto quoziente morale e sappiano sorridere e motivare sempre, anche nei momenti di difficoltà aziendale. Io voglio chiedere adesso a voi, come si motiva Farinetti? Come si motivano i collaboratori? E dovendo dare un consiglio a Laura, vale la pena di tentare di parlare a questo capo o vale la pena di aspettare che l'azienda si accorga che non funziona e lo cambi? Beh, intanto si motiva con la verità e la semplicità. Questo è fondamentale. e poi si motiva lavorando tanto e facendosi vedere sul serio, veramente impegnati. Vorrei aggiungere che un grande capo deve essere capace di mettere vicino alla matematica, cioè alla testa, cioè alla capacità di fare conti e di conoscere sempre perfettamente la posizione della propria azienda in quel momento, deve saper aggiungere un po' di poesia. La poesia è fondamentale, è quello che dicevo prima, cioè ragionare col cuore, cioè cercare di creare un ambiente che porti altri valori, quindi non solo l'etica che è fondamentale, che significa comportarsi bene, aziende che abbiano un buon rapporto con la terra, col cielo, con l'acqua, con il creato, ma anche con gli umani, ma anche un'azienda portatrice di valori importanti. In fondo passiamo le 8 ore più importanti della nostra giornata a lavorare, è meglio farlo in un ambiente che ti trasmetta valori di vita seri. Ecco, il consiglio a Laura è aspettare che questo capo passi, i capi passano e i dipendenti restano, oppure affrontarlo e dirgli: ma noi non sappiamo mai di che umore è lei, come dobbiamo parlarle? Che dire, i capi passano, questo succede nell'azienda. Io poi sono di quelli che pensano che un buon manager fa fatica a stare più di 7-10 anni nella stessa posizione. La creatività è un bene finito, non infinito, può dare il massimo per quel periodo, ma l'importante per qualsiasi collaboratore è che arrivino dei capi di quel tipo. Il compito del proprietario, che sia un'azienda padronale come la mia, piuttosto che una public company, ma comunque con una forza, anche una forte presenza di un titolare nel caso di Cristina, è quello di trovare manager di quel tipo e di accorgersi se non funzionano. Dunque, Cristina Scocchia, che consiglio potremmo dare a Laura? Aspettare e vedere che l'azienda si accorga che questo capo non funziona? Talvolta si aspettano anni. No, io credo che il consiglio sia quello di parlare, perché alla fine è fondamentale che ci sia trasparenza tra le persone sempre nella vita e quindi anche nei contesti lavorativi. Io parlerei con questo capo, gli farei capire che il suo comportamento non permette ai collaboratori di dare il meglio di sé e quindi rovina il clima aziendale, quindi ha sicuramente un impatto negativo anche sui risultati che la squadra riesce a produrre. Ci vuole trasparenza, ci vuole ovviamente coraggio, affrontare il capo certe volte non è facile, ma credo che sia importante. E poi, se questo non basta, non solo parlerei col capo, ma parlerei anche col capo del capo. Questo ogni tanto può anche aiutare a sbloccare le situazioni. Un'ultima cosa a tutti e due: ma le aziende oggi si fanno carico dell'aspetto psicologico della vita di relazione in ufficio? Farinetti e Scocchia. Quelle valide sì, ci mancherebbe altro. Un'azienda senza collaboratori non è niente, non è nulla. Le aziende che lo fanno sono quelle che hanno capito che il lavoratore, che sia in ufficio, che sia in fabbrica, ha la stessa importanza morale, intellettuale, di lavoro, di impegno dei top manager e dei padroni. L'azienda è una bellezza, è una meraviglia, perché è composta da queste tre entità che, secondo me, dopo che il padrone barra manager ha messo l'idea creativa, ha investito i quattrini ed è partita, da quel momento hanno la stessa dignità, perché senza collaboratori non si produce nulla e non si vende niente. Cristina Scocchia, l'aspetto psicologico nelle aziende, immagino che L'Oréal sia un'azienda che ci lavora su, come fate? Sì, è un aspetto fondamentale, sono d'accordo con Oscar Farinetti, le persone sono l'anima e il motore di un'azienda, puoi avere le strategie migliori, puoi avere gli investimenti più forti, ma se non hai le persone non riesci a raggiungere i risultati. Noi in L'Oréal da 2 anni stiamo molto lavorando proprio ad un programma di cambiamento che acceleri il passaggio da modelli di leadership più gerarchica a modelli di leadership più diffusa. Perché? Perché vogliamo far prevalere un rapporto di fiducia tra l'azienda da una parte e i collaboratori dall'altra. Io credo che in un contesto difficile come quello attuale, perché la ripresa c'è, ma è più una ripresina che una ripresona, Bene, in questo momento è ancora difficile, c'è bisogno del massimo dell'engagement, c'è bisogno del massimo della partecipazione da parte di tutti i collaboratori. E io credo che in un contesto lavorativo in cui prevale la fiducia aumenti la soddisfazione dei collaboratori e quindi emergano i risultati migliori. Quindi Laura, se hai sentito, se ci stai ascoltando, trai forse qualche elemento di ottimismo. Le aziende che funzionano devono verificare se funziona anche la psicologia dei capi che assumono. Io ringrazio moltissimo Cristina Scocchia, amministratore delegato di L'Oréal, e Oscar Farinetti, Italy e non solo. Grazie a entrambi e entrambi buona domenica. Buona domenica. Grazie. A tutti, buona Grazie. Domenica a tutti. Nessuna è perfetta. Allora, meglio un capo costante anche nel cattivo umore o meglio un capo che un giorno ti tratta bene e un altro ti tratta male? Secondo la ricerca dell'Università del Michigan, di cui abbiamo parlato diffusamente in questa puntata, è meglio un capo costante, anche se il tratto caratteriale non è dei più simpatici. Ne abbiamo sentito, ne abbiamo parlato con Oscar Farinetti e con Cristina Scocchi, amministratore delegato di L'Oréal, ma è il momento adesso di sentire i consigli che vengono dalla nostra coach, che Maria Serena Ciambellotti può dare alla nostra Laura che si trova in una situazione simile. Allora, buona domenica Maria Serena, come ci si relaziona con un capo lunatico? Buona domenica a tutti. Allora, intanto rispetto alla lettera, no, in cui dice capo giovane lunatico, mi viene da un po', come dire, pensare che questo suo essere caratteriale nell'espressione del ruolo sia un po' dovuto anche all'insicurezza rispetto agli obiettivi che l'azienda si aspetta da lui, nuovo appunto nella posizione. E tuttavia, indubbiamente, questa sua manifestazione così lunatiche, comprendo possano mettere in difficoltà la nostra ascoltatrice, quindi mi sento di indirizzarla verso riportare il capo stesso a quello che è l'obiettivo, visto che è quello che lo mette probabilmente così tanto sotto pressione, e manifestare chiaramente che questi suoi atteggiamenti sono per lei disfunzionali. La parola chiave è proprio questo, disfunzionali rispetto al raggiungimento dell'obiettivo. Quindi, uscendo da una logica di giudizio giusto o sbagliato, preferisco così, preferisco colà, rispetto alle sue reazioni, è proprio quello che può focalizzare entrambi sulla maggior razionalità è il comportamento che sia più funzionale rispetto al raggiungimento dell'obiettivo. Quindi proprio dire, chiedere una comunicazione piuttosto via email o in un momento in cui l'emotività sia decisamente più sotto controllo, certo. Ecco, quindi in pratica dirgli noi dobbiamo raggiungere questo obiettivo, certo, facciamo finta che sia il raggiungimento di questo contratto con questo particolare cliente. Se tu un giorno dici che stiamo facendo bene, il giorno dopo neanche ci fili a noi della squadra e quindi ci lasci nella costante incertezza di come comportarci, noi questo contratto non lo prenderemo. È così, certo, che più o meno bisognerebbe sì, dirgli. Specificando, questa tua reazione mi fa perdere di lucidità e quindi risulto meno efficace nella stesura del contratto, nella compilazione dei report che sono necessari per raccogliere i dati, quindi proprio con specifici esempi in modo che lui si renda conto e quindi sia preoccupato lui stesso, no, di mettere le persone della propria squadra nelle migliori condizioni. Se è inconsapevole, se è uno lunatico, potrebbe avere la reazione di dire ma questi sono problemi tuoi, se tu non sei in grado di controllare la tua emotività e di non rendere al meglio, allora ti tolgo da questa squadra, non sono io che devo cambiare, ma sei tu che devi essere all'altezza del compito che ti è stato dato. Sì, questa è una possibile reazione molto molto sulla difensiva, di chi quindi si sente messo in discussione. Infatti il modo in cui è importante comunicare all'altro è proprio questo, cioè evitare la comunicazione mi serve un tuo comportamento diverso perché l'altro potrebbe percepire, allora sono io che non vado bene. La cosa fondamentale è parlare dell'obiettivo. Per poter raggiungere l'obiettivo mi serve essere messa in queste condizioni. Questo è per me funzionale e per la squadra. L'inconsapevolezza, ma a quei livelli fino a un certo punto, comunque è indubbio che la pressione che lui stesso sente possa far arrivare, ecco, questo tipo di reazioni anche emotive, quindi può essere utile anche un atteggiamento un po' di comprensione empatica, no, rispetto a lui da parte della ecco, chi ci scrive. Laura, come si può psicologicamente proteggere? Cioè, diamole un consiglio su come, mentre pensa di far presente, noi abbiamo un obiettivo comune, questo contratto, faccio per dire, lo dobbiamo portare a casa, facci capire come vuoi che ci comportiamo, dacci una linea che sia quella costante. Mentre deve far arrivare questo messaggio, come può lei stessa, diciamo, proteggersi da eventuali sbalzi di umore del capo stesso? Aiutano tantissimo, sono molto efficaci, la nostra mente in questo ha un grande potere, le visualizzazioni di immagini positive, quindi averle proprio davanti, scegliere una foto che sia sul telefonino che rimanda ad una situazione in cui c'era una particolare pace, come un'immagine di vacanza, l'immagine di una persona cara che possa risultare efficace se rievocata. E fare questo piccolo allenamento giornalmente, perché naturalmente questo funziona se uno è allenato, no, a richiamare questa immagine positiva. Per esempio, a me piace il mare, no? Se io mi metto sullo schermo il mare di Sabaudia del mio paese, me lo guardo, questo ha un effetto positivo sul mio stato d'animo. Interessante. Sì, un effetto positivo al quale tu puoi accedere quotidianamente, ritagliandoti proprio pochi minuti, facendo 3 bei respiri profondi, riconnettendoti proprio a quelle sensazioni anche fisiche, che quella situazione del mare, il profumo del salmastro, la temperatura tiepida del sole sulla pelle, e quindi anche dare una parola a quella situazione, una parola che sia quindi potente per te per poter accedere a quello stato di benessere. E quindi giornalmente ritagliarsi un piccolo spazio che predisponga, che quindi riduca il livello di ansia, di stress, che questa situazione di avere una incertezza, no, rispetto a quello che lui può dire o fare, naturalmente comprensibilmente genera, perché l'incertezza è data proprio da, cioè la situazione di stress è proprio data dall'incertezza. Certo, che come scrive Laura, un giorno è tutto sorrisi e l'altro giorno neanche li guarda. Quindi, capito Laura, mettiti una foto di un qualcosa che ti piace, ti comunica cose positive, non è la soluzione di tutto, ma come dice aiuta. La nostra Maria Serena Ciambellotti, aiuta. Grazie alla nostra coach, buona domenica a lei, buona domenica a tutti voi che ci avete seguito. È domenica, niente multitasking, che è una fregatura.